camicia elettrica. E capita, Bobo. No, oh yeah. Ci ha lasciato un ghisotto, una ciappidese. Ora, come parlo più di ghisotto, a caldaia. Questa è buona, buona. Oh yeah, yeah. L'hanno fatto fino a tua casa, grazie di Dio, che periferia, non ti piace? Il problema è che... non ti piace nessuno. Guarda, io sono troppo contento, perché non sono lontano da Sassari. Io 3-4 minuti sono già a Sassari, ma... Sì, purtroppo ci sono alcuni motivi, lo sai che la gente sta diventando sempre più diffidente a darti la casa. Ti devi accontentare di quello che fai, ti giuro, già te lo spiego il motivo perché. Io 11 anni quando sono venuto qui, 11 anni fa, mi sono presentato, mi ha detto dove lavoro, gli ho detto dove lavoro, con chi vive, ma io sono solo. E mi ha detto sì vabbè, è subito al volo, ho detto questa cosa mi piace moltissimo, la voglio. Dice due mesi a poco la corrente, pronti, capito? 1350 di colpo ti sei presentato subito, già un grido, ma ci sono problemi. Beh, grazie a Dio, dai. E vabbè, non posso lamentare, dai, tra stipendio e pensione sto bene, dai. Sì, sì, sì, no, ma... cavolo, è una garanzia, E adesso, dopo 23 anni che sono qui, partono di pensione quest'anno. Cappa, fai bene. E tanto che non posso lavorare in altro. Per legge, arrivi a 67 anni, ciao. Vabbè, ma 67 anni non ce li hai. Io faccio settembre. Io agosto vado un mese in ferie e non rientro più. Ma veramente, sei così grande età. Cappa, sono del 54. 28 settembre, caro Antonio, sono di nostro, ma ce li ho. Non credevo. Più vicinito. Ma pensavo che arrivava a 60 anni, ma non pensavo che arrivassi così. Sì, sì, sì, mi Claudio già lo sa. Claudio ne ha 61-62, quest'anno ne fa una fare del genere, io sono più grande. No, no, guarda, non lo pensavo, te le porti bene. Faccio una vita molto movimentata, tanto per carità, non sto mai fermo. Anche in casa vedi, da una parte all'altra, ma c'è l'amica mia, ha detto, siediti, sempre, da una parte all'altra non ti fermi mai, mi stai stancando solo a guardarti. Pure io sono sempre vendi, no? Che... sempre sperimentando, sempre vende. O so che vende, so che sempre, sempre in giro, sempre vende. Pure io non so che così, non mi fermo mai. Solo la notte per dormire. Io per esempio no, è difficile che dormo dopo pranzo. Io dormo solo la notte e basta, quanti otti di ore, beh, ho finito. Ma io ho il vizio di quando vado, poi non parlo a baracchino, mi metto a letto, guardo la televisione. Secondo che televisione, poi niente dormo, mi sveglio 2:30, 3 e non voglio più sonno. Stamattina mi sono alzato alle 5, colazione, fastidio, ghita, ghiaccio. Poi sono uscito verso le 8, 8 e 4. E sono entrato alle 11:30, non fare il genere, è obbligato un po' di cose. Cioè la mattina deve essere che si sta formando un po' di ossido di nuovo. Sicuramente sì, anche ogni tanto intengo. Aspetta che la controllo. No, va bene. Avanti. Sì. Poi, ciao già, buonasera. Sì, ti dite più usato. Non ho capito. Che sei tutto usato, lo dirà. Ma stai scherzando, sai? Ma adesso no, prova. Oh, 3 prova. Non è chiaro, ma molto vicino al coso, al microfono stai parlando. Vabbè, ce l'ho qua, non è che... Ma adesso sei uscito bene, scusa. Ce l'hai qua, però se lo metti un po' vicino alla bocca, magari salti nella rosa. Lo so, lo so. E poi io sono un po' ziato, e saturarsi, devo tenerlo così, lo devo tenere. Se va bene, sì. Ciao Gianni. Ciao Tony. Hola. E la batteria, dopo lì non è domani con la carta lottata, la porta batteria. Si è fermato un po' di ossido. Perché? Avanti, Brecchi. Sì, ciao. Ciao Franco, buonasera. Mi potete dire come fa questa radio? Questo... provando il microfono. Radio zero, già tu hai copiato. K, c'è il basso di modulazione. Ah, K, era quello che volevo sapere. D'accordo, grazie, buonanotte. Ok, dai. No, è Gianfranco, ma è basso di modulazione. Ma radio quasi zero, io non riesco a percepire. No, io già l'ho sentito che mi arriva forte. A me che basso il segnale. Gianni? E come succedendo già? Gianni, attenzione Gianni. Eia. Ma tu? Il bip. Con questo microfono so farlo ripetitivo, ma lo dimenticato. Ci è rimasto la bovella. Sto scendo bene. Sì. Aspetta adesso che metto il bip. Vediamo un pochettino. Così bip si sta facendo. No, come fa quando è scritto, l'ho fatto bip. E come le suonendo in un glasso? Pi. Hai capito già che Antonio non mi dava che quest'anno facevo 67 anni? Gianni! Mi mai sul microfono, Giamba, lo pone un altro. Attenzione Gianni. Un attimo Tony, che lo cambio, là. Gamba. A me mi sa che devo cambiare anche la batteria qua, se c'ho gai. Domani faccio col lavoretto che faccio. Sì, dai, magari è buono appena il GRC che cosa. Lo spare per contatti, risciogli appena l'ossido e via. No. Allora, io, a parte dell'avvitatore, a parte dei trapani che ho anche qui i trapanini piccolissimi, che ho tutti i pezzi di ricambio, di smeriglie e cose, quindi però piano, me lo pulisco, lo faccio nuovo. Capito? Senza bisogno di CRC a questo niente, io lo faccio diventare nuovo. Non puoi vedere che va bene. Ah, ho capito cosa devo fare. Usare le frette. Esatto, le frette. Se puoi, tanto che non ho, quello che non ho, io voglio fare più il metro batteria quadrata. Un paio lungo e bruciato. Che cosa? Già, di tutto. Gianni Cucumetto! Aspetta che sto prendendo. Gianni Cucumetto! Ciao Luca, buonasera. Ciao, invece che... Torino Caballero! Ciao Monti Caballero, ancora vivo. Fatto avuto la Coca-Cola, cazzo, riesco a dormire, porca palestra. Coca-Cola contiene caffeina, infatti, che canini di caffè, non li dicono. Senti il cucume, cazzo, va che va anche presto. Comunque, ciao Luca, bricichetta. Già, no, c'è un po' basso di modulazione, sì. Io, c'è un microfono normale. Allora, seguito chiamando Cavallero, a Gianni come lo chiamiamo? Gianni Tamburino? Gianni Pannolino. Certo, sì. Vai, Cavallero. Pannolino o Pedivella, uno dei due. Sei corretto, cugino. Gianni Cucureddo. Adesso il picco, dove sta mangiando? Il picco adesso non ne hai. Eh beh già, quel che... va bene quel coso, come microfono sistemato, va bene, sì. No, non so se... come vai? Mi faccio mettere il picco a casa. Quello che gli ho messo la tremore stringente? Sì, ho toccato altro. Ho rifatto le saldature nuove dello spinotto, strano, strano. Già dici di procurare un cavo a 5, se lo vuoi cambiare. Ma 5, non era 7. Sì, ma se ne utilizzano 5. E allora c'era, ma utilizzare c'era, tu devi fare 7. Ma utilizzare c'era, devi fare 5. No già, che c'è tu a 7? C'è soltanto, allora, c'ho il filo, il coso lì, e li ho scritti lì nel foglio. Sono 5 fili. Però il discorso è che saldarli nella spinottiera, cazzo, è quello, c'è un po' di lavoro lì, capito? Ma a meno che ne disaldi nella spinottiera e li inserisci direttamente nella spinottiera. Vado a saldarti, da magari per il tremore stringente, si salda il tremore stringente. No, c'è bisogno già, a filo, capito? Le stacchi la spinottiera, dove ci sono i fili attaccati, e si salta proprio a filo dalla scheda, dallo stampato. Adesso ce la vedi il bip. La Giumagna dubbi valuci, mamma mia, cara. Qualche giornata. Ma non è che per caso eri da Nicolis e c'era un po' di polvere di mamma? Eia, infatti ho fatto il brodo poco fa, stanotte, a cena. Mi rifugio di marmo, balcone. Ma tu, non stai scendendo questo baracchino il tuo? Non sta uscendo. E vaffa Napoli, sta dando problemi questo microfono. Sì, tutta la sera con questo aggiuntura, la situazione è che non si scende. Se esci non esci, esci non esci. Esci basso basso, esci bene bene, non esci. Buttalo via, copro tutto nuovo. Sta dando un pochettino di noia. Ma chi è quello che te l'ha venduto a poco? No, il microfono, La Pazzino, come si sente come si deve? Non posso buttarlo via. Ma così a chissà che cosa, caro, usure. Ma solo questo c'ha di microfono, mi. Come che un altro? Tu non avevi più 4 lì, gli attacchi, e va bene, alla grande. Certo, avanti, buonasera, ciao. Anto. Eia. Che problemi hai col microfono? Quante volte non esce? Fammelo controllare, lo controllo io. Te lo porto, boh. Chi è che hai portato masso? Perché il condensatore, hai capito, quindi già te lo controllo io. Non so cosa cavolo gli sta succedendo, non riesco a... Adesso sta uscendo, e quando mi gocco mi appena, me lo fa, va, attendo il baracchino, là. No, se fa così non succede niente, vedi che già sta uscendo. Se tiri il cavo tu no. Anto, non devi tirare il cavo, cazzo, se tiri il cavo, cazzo, boh. No, non sto tirando, è qua il cavo. Ma vuol dire non stai tirando? Se ti gocco un cavo, non diri. Stai attento, se si staccano quei fili, è un casino. No, ma non è che io, è qua, non è lontano, è qua. Vabbè, comunque do uno sguardo, non c'è problema, però non tirare, Anto, che quel microfono è molto delicato, Già sono qua, Tonino, sono sempre qua, ma ho abbassato il volume. Ho sentito, te me l'avevi detto che ascoltavi intanto. E adesso accendo il baracchino. Tu non tirarlo, Anto, il microfono, che è un bel pericoloso. E Antonio, per esempio, se uno con calmi uso anche normale c'è il cavo più lungo, ma usando un darle mi sono seduto, perché io non posso tirarmi il cavo, che delicato. E adesso attacco il baracchino. Stacchi il baracchino? Ehi, l'altro baracchino. Ah, perché su quella radio lì c'è solo quel microfono, Antonio, capito, un attacco particolare. Se si rompe è un casino. Vedo se con la bottiglia a pochettino, infatti mancavo radio, da poco fa glielo sto dicendo. Antonio, te la mettiamo col più 5, non ti preoccupare, già è pronto. Capa, dai, e poi questo te lo porto, lo vediamo. Ma lo fa ogni tanto, lo fai. Lo fa ogni tanto come lo tiri, Anto, sono ben pericolosi quei microfoni. Capa, già lo risolviamo. Vai, ci attacco il baracchino, là. E non ne ho neanche io di più di quei microfoni, perché ho venduto 2 radio. Capite? Quindi ho dato 2 microfoni uguali a quelli, non ne ho più manco uno. Ce ne ho solo uno per me. Gianni, è finito tu. Si sente? Sì, sdraiato, c'è un microfono distante. No, ce l'ho vicino, ma è un microfono normale. Già, c'è bene con un microfono normale. L'altro, dove c'è la batteria scarica, c'è qualche microfono. Luca Pedivella. Io sono qua. Questa qua è la partita. Ma è entrato un altro, mi è sembrato Franco. Franco, tu sì. Califo era Antonio. E ora c'è lui, ya. Califo. C'è Gianni, c'ero io, Claudio Consentito, poi c'è Luca Pedivella e Antonio Bomborino. Antonio Caballero. Che è a fondo scala qua. Sì, sul 3 più 30. Ora mi sentite? Sì, che ti sentiamo. Ecco qua, questo è 87. Sei più forte, è la radio grossolana. Vabbè, il microfono è il denso. Cappa di Roger. Io secondo che fa arriva. Ciao Franco. Ciao Fra, buonasera. Io ci sono. C'è quasi. Ehi, ehi, continuate, mi sto guardando verso il finale di partita. E io fra me sto arrivando. Già va bene. Ma ho capito, domani non ce lo pigliamo. Vai, non ce la guardiamo, un bello caffè. Stamattina guarda. Siccome ero vicino all'ospedale, sono andato a parlare che c'è all'angolo di via, via Montegrafa, deve essere, sì. Quello che fa angolo con l'Italia, che c'è le scaline e salite. Ma era così buono questo caffè. Io pure prendo sempre il zucchero. Ti posso dire che mi andrei in me volentieri a prendere i caffè lì. No, no, io l'ho detto, c'è anche un po' di gente seduta e gente in piedi. Vedi anche le pasta col bar. No, fra, che sono aperti il bar di nuovo. Oggi è giallo. Certo che sì. Andiamo in via Roma dall'aria, ti posso fare un caffè turbo, usciti da Ghisotte. Vuoi un caffè con un rotto di carta igienica? Sì, la secca della Sarra Lidorra. Oh, yeah. Ma sono assembramento, e di Sarra Lidorra quanto è prima. Ehi, mi do coi coglioni. Capito, fra? Tu chiamami che ti porto l'aria, ti posso fare un caffè turbo. Ma che rispondi così, Matteo? Con te sto parlando, non sto parlando con te. Io parlo in generale, perché se fanno l'assembramento li chiudono, capito? E conviene, e poi come stanno facendo? Fai rientrare e fanno fare fuori, capito? E infatti aggiunto, dici che mi tocco le balle, perché l'aria sei benissimo che c'è al bar, quindi speriamo che non chiudano, è lì il discorso, no? Basta rispettare le regole, è semplice, no? Se non si rispetta le regole è normale che fanno così, infatti io non vado, non mi sono quintani di rubare. Mi ha chiesto avanti, io non ci vado nel bar, non mi interessa. Ah, dov'è sono l'aria? 4.0 all'angolo di Piazza Italia, via Roma, Piazza Italia. L'ex Meraviglia mi sembra si chiama. Molto bello, mio Antonio ci va sempre. E io ho capito, purtroppo la gente è ignorante, è un discorso generale, però siccome mia figlia lavora nel settore, io sono preoccupato per quello. Speriamo che continui a diventare, soprattutto a zona bianca, in generale per tutti, ma che si possa andare avanti almeno in zona gialla, che si possa almeno aprire dalle 6 del mattino alle 6 di sera per fare almeno qualche cosa. Perché mia figlia era 2 mesi chiusa, 15 giorni prima e 15 giorni dopo. Ok, qual è il primo entrando a sinistra o a destra? Tutti i colleghi tuoi vanno la mattina lì, tutti, è tutto pieno, vanno tutti quelli della provincia lì, all'angolo, di fronte al tabacchino. Capito? Di fronte al tabacchino, è proprio all'inizio di via Roma. Mi Antonio, va, Renato. Eia, io vado, riprendo 2 centi. Ho un bittere a che voce. Aspetta, mettetevi d'accordo. Chi desi di fronte al tabacchino o chi da fianco al tabacchino? Di fronte, ti ho detto al tabacchino, ma oggi, di fronte. Da quando mai sei 30 anni in provincia, non hai mai, non ti ricordi il Meraviglia, l'ex Meraviglia. Non hai capito, Antonio è da fianco al tabacchino. Di fronte, ti ho detto, fianco. Lì c'è già che giù, c'è. E lì, cavolo, proprio all'inizio. Cioè tu fai l'obeso di Piazza Italia, subito dopo vedo, che poi il primo bar, capito? Allora io io, diciamo, un bar che conosco abbastanza bene, di fronte al Cavacchino. Se non vado errato, Claudio, corrigimi, ha una scala chiocciola per caso. C'è il piano sotto, il piano sotto, è tre piani e... Sì, già quella che conosco io. Sì, è stato tutto rifatto a nuovo a giugno dell'anno scorso. Meno che il bar che hanno fatto dove c'era il Gallo d'Oro una volta, te lo ricordi? Cosa, Tony? Che meno il bar pure che hanno fatto nuovo, lì dove c'era il Gallo d'Oro prima. Non sono molto avanti io di... del bar di Verona, che c'è un bel casinato. Sant'Antonio mio. Che partita triste, cazzo. Né una è andata, segna. Ho detto... Non è... Solo lì mi dico, quando l'aria di chiusura la sera, a buttare la mondezza, insomma, è buco. Cappa. Gianni, ripeti. Ehi, al Gallo d'Oro è Piazza d'Italia, non in Garroma. È Piazza d'Italia. Era. Adesso cosa c'è? Bartoli. Cappa, io lo sapevo, sì. Poi hanno fatto un altro bar. Aspetta, mi hanno detto che poi il barrale è chiuso, sotto i pozzi che spavero, Ehi, come mai? Chiuso, lo stanno rifacendo nuovo, anche l'altro di giù che c'aveva Martinez, il Bartolino, un sacco hanno chiuso. Che se Bartolino è storico, cara. Quante volte ci andavo io, cara. Viaggio compreso, cara. Io sono meglio che fa, mezzo ciocchettato di gabbo, Ma lì stanno aprendo un altro Bartoli dove, sotto i portici. Bello quello stesso. Andate, Franco, ti sei addormentato? Franco c'è dormito. La comunque mi ha detto, aspetta un attimino, tu vabbè, fatto buono, vado in bagno e poi rientro. Dopo, se mi mezz'ora, se mi mezz'ora, aspetta tutto, che non ce l'ha più. Sistema da Franco, giù. Sei addormentato. Ma io, abbiamo bruciato una o due volte. Ciccio, beh, scendati. Torino, patta asciutta. Luca Perica. Antonio Bambolosso. No, Antonio Bambola di Gas. Antonio San Camillo. Gianni La Carrumba. La Garrumba. Gianni La Carrumba, sa. E a chi può cavato del bigliardo? Torino Cavattassi. Gianni Cirimella. Vai, Cavalletto. Claudio La Pettina. No, io sono come di Vella sempre, no, non mi chiamo come attivo a me. Cirimella, conosciuto lei tutto lì, a Giovanni Cirimella che lavorava alla Camera dei Commerci. Capa, Cirimella. Ma io ho conosciuto parecchi cimici, ma un meme. Tu hai già rotto, tu lo ricordi. Come oggi Cottino. Qua, Cerotto, Gianni Petretto. Chi? Cerotto, Gianni Petretto. Sì. Ma che Cicottino, c'è Cicottino amico di Maiena. Fiuccia, Giuseppe, conosciuto di sì. E quelli vecchi li ho conosciuti. Prego, Giuseppe. Forse non c'è più, c'era Macallè, c'era che cosa, Luisito, via Sicilia abitava. Vabbè, lo Macallè mi sembra siamo andati, figlio siamo andati noi Gianni, io, tu e Franco mi sembra, che abita lì a Rezzedo, che è morto. No, Macallè abitava dove sono le ferrovie, via 25 aprile, era un capostazione mi pare, una cosa del genere, le ferrovie, era il padre di Aquila della Notte. Cappa, che Aquila della Notte abitava in viale, perché viale così, via Monica, via Caprera mi sembra. No, già, è da qui su Aquila della Notte, non voglio il Macallè, non siamo andati noi in via Rezzedo. No, io non c'ero io, non ero io. Siete andati voi a pensare l'antenna che ne avevano buttata giù, mi ricordo, che si è morto così. Franco Califo sono andato, mi pare che era Buruca, ora me ne ammetto. Abitava anche in via Rockefeller, mi pare, chi c'ho. Dietro via Rezzedo, no Rezzedo, affanculo. Non è Rezzedo quello. Ha giudito che abitava anche in via Rockefeller. Mi dice, da voi di che cuore, che ha giudito. A me lo puoi dire, mi lo conosciamo bene. Me. Ehi, ma si Montelepre è quello. Ehi, è vero che poi la si divide in due, si divide. Una divisione popolare in Chivi. E poi c'è quella che scende all'ospedale. Lui abitava verso le case popolari lì. Segui su vizio con il trendio. E l'ho conosciuto, era una persona. Gli arrivava una bombola. È una persona anziana quando l'ho conosciuto e poi è morto. Abitava in mare a Piano Berra. Colombano. Ehi, bravo! Bravissimo, ehi, a quello lì, quello lì, quello lì. Siamo andati con Franco, poi c'era un altro, non mi ricordo se era Luca o chi era. Pensavo che era Gianni. E non mi ricordo perché siamo andati, io per l'antenna, o era vendendo che cosa, non mi ricordo. No, non avevo visto per l'antenna, a piazza l'antenna si tratta di fissa. A Califo bisogna lì, dove era sempre Edo, in mezzo all'intrugno. Ehi, è per lo conoscente. Lui sa zia, nel rione lì dove sa zia cosa, ma zia, le prende molto buruviscio, l'imprenditore, cioè l'imprenditore, che va via l'impresa, guarda, non li conosco, che lavorava pure con Casarella, però lui nel palazzo prima abitava. Luca travagliava con Casarella? Luca Casarella. Ehi, non lo conosce a Masia, l'imprenditore, ce la va il moscio. No, no, no, Casarella mi dice qualcosa, ma Masia no, Masia conoscevo solo Antonio, io tassista, e poi Masia Maniamoca. Aspetta, aspetta, Antonio, Bombolino è facendo un casino. Allora, Masia era Gesuita Masia che lavorava in società. Con Casarella che era Antonello Cano che abitava tempo fa in Il San Donato e non voglio a me. Ehi! No, ma dite a me che c'è il nome perché io non conosco nessuno. Io lo conosco, ci ho anche lavorato. Quindi, tempo fa. Che ho trovato Alghero una settimana e poi dicevo che c'è altro lavoro, c'è la piena di là e nulla. È nuda, ma lui ho visto che lavorava via Sosa e ora sul solaio. Dice cosa vuoi, gli dirà, ah ma così io, fara, su questi tratti, sono meglio di altri, ti racco gli osso. A mio zio l'ha bruciato, mi pare, 40.000 euro, ho fatto il conto. E altre pensioni, tutto il denaro, non gliel'ha mai dato, pezzo di me, caga. E la vera viene che subito. E a Torino Piano e si chiamava Casarella. Lavorava in società con Gesù Masia, tutto qua. E tu Claudio, l'hai conosciuta a Prascovia? Conosciuta no, ci parlavo. Lo sai dove abitava, sì? No. Abitava esattamente via Tempio, più avanti del Trisbar. Ah, dove c'erano gli uffici dell'ESAF un tempo, sì, in quel palazzo. E no, aspetta. Era una palazzina lì. Uno o due piani, non di più, era ammassa la palazzina. Lui abitava al primo piano. Ma era anziana quando l'ho conosciuta io. Praticamente dopo l'incrocio dal Trismar di via 4 novembre vai più avanti e facevi pochi passi, dai. Ah, finita su gatti, ma ti dici tu, brutto. Era zero, fuori l'Inter, era io pensi in finale. Cosa dicendo che c'avevo il volume troppo alto, Tonico? Ho detto, dal Trisbar, andando sempre per via Tempio, passavi via Cotrovelli, ma sei perdita, non è più avanti, poi sulla destra dove abitava la Pascovia. Ah, quindi non era neanche il palazzo dell'ESAF, perché il palazzo dell'ESAF praticamente è di fronte a Vittoria, quello alto alto. Sì, ho capito, mi era una bomba forte qua. E poi più avanti ancora abitava Uccio meno orizzonte. Uccio sì. E poi ancora più giù, a sinistra abitava Giuseppe Vela 3, Giuseppe Pino, Giuseppe Pino. Giuseppe era l'angolo tra via Marsiglia e via Livorno. Via Marsiglia con esattezza. Esatto, via Marsiglia e via Livorno. Va bene. Chissà che sarò tutto. E via. Io devo mandare 30 buonanotte. Ma invece di mandarmi semplici fotografie della bippa che mi mandi, scrivi ogni tanto. Buonanotte carissimo, buongiorno carissimo, no, me ne mandi un poco di fotografie di Cimbrana. Se trovo un'ape di vela te la mando. Ecco, mandami un'ape 50 con l'ape di vela rotta, ma non mi manda sempre a chi si guardi, buh. Va bene, chi fa? Vela! Doppio ru. Vedi, Gianni, uno di quelli che si cappotta. Vedi, si è sdraiato e si è dormito. Già va bene. Ma è lui, è così. Cazzo, è così, è così. Uscia. Ma c'è un guiso con il cappottrone. Chi è che c'è rimasto qua? Sono tu, per me lo penso. Tornando al discorso della pandemia, un casino. Se richiudono è un casino, si va a fondo ragazzi, si va a fondo, un sacco di soldi mia figlia, un sacco di soldi. È arrivata adesso la cassa integrazione in baia di dicembre, fatti lo conto. Ma con la Ruggi si baga. A me, Claudio, l'anno scorso, mi hanno messo due mesi. Maestro, cosa vuole? Cassa integrazione e malattia. Mi spiego come la cassa integrazione. Noi per cassa integrazione paghiamo il 60%. E la malattia al 100%. Metti in malattia, fa obbia ziti. E infatti preso il 100%. Noi non si può mettere in malattia. Ah. Si può malattia. Se lo giovi, malattia si può. C'è questo contributo, questi bonus del ristoro, ma li stanno dando a rate, non ti paghi niente, capito? Quindi fortunatamente da lunedì insomma già stanno lavorando, lavorichiando, dai. Gente c'era tu, non si è andato giù. Ma c'ero io e altre due persone, mi pare. E basta. Oh Claudio, a me sì perché io sono categoria fragile, ecco perché mi hanno messo coronavirus e malattia. Ah così, anch'io. Sono categoria protetta come gli animali. Io sono cardiopatico e diabetico giustamente categoria fragile, così dicono loro. Eccetera, adesso io sono categoria protetta, tu sei cardiopatico, io sono scoglionato. Allora hai passato a Carascogliosi, se ne sono scoglionato. Tutto oggi passato, Donichi, 3 anni, mi venendo di tutto e di più. Scoglionato sono veramente, non ve la posso dire, che prima ero impegnato la mattina, adesso non puoi fare niente, nulla, assolutamente niente. Nulla mi, capito? Poi con questi controlli che ci sono, non puoi manco andare a niente, manco al bar, perché... non ci puoi stare, capito? E c'è un casino che al governo, non si muove d'accordo ancora, è un casino, quello se c'è quello non entra, quello non vota, quello così, quello colà, insomma, non si comprende nulla. Salvo che questo gioco dura poco, ma che è un casino. Io su Mario Draghi, un astro me. Oia, un obbligio dell'astro è Dio santo. Il paradiso, lasciamo perdere. Però Antonio, io ti sentivo tempo fa pure. Una radio così bella, chiara, che te la sei cupo. Sto usando il microfono a palmo. E altre volte cosa stai usando? Il microfono a palmo, non la giugata di sta... di sta in piedi, cioè il microfono a palmo l'ho lasciato appoggiato lì. E lì sopra. Sto usando questo, e quello là, c'è questo e l'altro, 5,50 lo far controllare, mamma mia, non è bosso buca. Tori, dimmi tutto. Ma tu c'hai sempre l'NB sollevato? L'NB, allora, sì, provo a abbassarlo, il mio cambia. Quando lascio l'NB level sollevato del Galaxy, anch'io certe modulazioni sento cupe, lo abbasso e me la fa molto più chiara. Prova tu a parlare. E che io? Ah, vedo com'è. E no, che bello. Dice, sì. Che cosa? Si deve batti. Non cambia quasi niente, forse essere che lui non so se è più lontano di me o più vicino, però io lo sento meglio se abbasso l'NB. L'ho già notato, non so. Ma chi c'è rimasto? Gianni si è dormito, Franco si è dormito, c'è anche Luca mi sembra. Chi lo so, sono Magnindi, oppure fumendi. Fumendi, non fuma Luca. Allora, se non fuma te l'ha mangiato, oppure si è dormito il burretto. C'è che da pedirmi. Io sono al telefono, un attimo. Ok, già, allora già è sveglio. Anzi si andrebbe di bella, qui la cabama è. Sto fissando che sono al telefono. E io avevo 60 anni. Cosa, Tony, che avete parlato in due? Sono al telefono. Devo fare, convinto che io avevo... E io ho capito già. 67. E che hai convinto per 60 anni? Io ne ho 61 fra poco, ma... Tony non ne ha 67, Antu. È vecchio. Ammazza. Vabbè, comunque ce li porta bene. Certo ce li porta bene, ce li porta presso. È l'importante, ragazzi, la bandiera che funziona a voi. A tu? Ehi. Non sapete che una volta che è scappato un amico al circo, ha trovato una bella patatona e l'ha fatta, ce la facciamo 34 e mezzo. Davvero? Ehi, gigantelato 34 e mezzo. No, la metà di 69 è 34 e mezzo. Ah, non bisogna via 34 e mezzo, non manca più. No. Oh, da va, una montagna. E io tu, tanto è un ametto, tre anni, uomini. E che ho detto? Un ametto. Ah. Che cosa? Andiamo a vedere. Sì, andiamo a vedere, sì. Io ho giù visto due giorni di mi sono spaventato. Pari che vengono della zucca. Non mi l'avevi fatto vedere che c'è cosa. Al circo l'ho visto, stava cambiando. Ma va, veramente. E suo, il pendolone faccia, ma è una bassa all'ascia. Non sto scherzando, sono così, i nani sono così. Sviluppano praticamente i genitali, ma non sviluppano in altezza. Perché tutto lo sviluppa per la pizzola, perché è una ferraccia. Ma lì sono un gioco, comunque, ma i lanciagotti però c'hanno il pistolino grande, capito? Cosa cammina, tre anche. Ma infatti è difficile che il nano cada. È perché come il triciclo che c'ha tre ruote. Bravo. Discorso il mio occhio là. Vabbè, siamo puliti, no? Stiamo raccontando una cosa che io l'ho vista, davvero, non sto scherzando, stavo lavorando anche perché c'era il circo Olbia, lì al Fausto Noce, e praticamente siamo andati una squadra per darle l'acqua ai bagni, che avevano collegato i bagni chimici, e quindi noi ci hanno chiamato per intervenire a darle dai pozzetti lì che ci sono in Fausto Noce, abbiamo passato i tubi con i politirene volanti e abbiamo dato l'acqua. E va lì un anno facendo la pipì e ti dico che mi sono asciuttato da uomo. Abbiamo un attrezzo, abbiamo un manganello di uscita della pulizia. Ho detto, ma c'è culo scegli? E faceva uscire il capo. Ma faceva sempre il capo, sicuro, sei sicuro, tutta roba tua, faceva sempre il capo, ma poi mi ha detto che ci devo girare, cosa ho dovuto, muro. Sicuramente andava dalle femmine che sono in chivi, anda. La roba magannone può andare. E mio ti pisa sotto, detto. Tony, ti giuro, da uomo mi sono spaventato, non sto scherzando, a parte gli scherzi. Allora, c'è a me in varia, ti giuro, mi sembrava il pezzo del tubo quello in polietilene nero. E invece ha giunto il cornicione, ha detto, no, qua c'è qualche errore. Come anche le persone, dai, me che sono immariato e l'altro che non c'è il male, che verrà minore. No, ma loro proprio c'è scritto, è natura, loro sviluppano i genitali e perché hanno questa altezza così, non lo so, però la realtà è quella, io non ci credevo ma l'ho visto, infatti si è girato il mio collega di là, allora ci ho contato però fai tu, no fai scelto prima, giurami qui da che coppia manganello a capo. Infatti ha deciso, ha detto io già va, allora c'è il buttatore, ci siamo andati, come vediamo un colpo di manganello. Proviamo a risapacca. E poi glielo rifacciamo sempre perché è troppo tutto. Anche lui è andato in pensione assieme a me. Ogni tanto quando la compisco da assieme. Io va, mi raccomando, non ti c'era quando andiamo al circo. C'era il circo, Lidia Togni era, sì, Lidia Togni, ed era lì al posto nostro. Ma ce ne sono tanti, fanno questi, ci sono questi nanetti, non so che cosa facciano, poi ci fate dei bagliacci, ci fate dei, ma sono tovi, un bel tovi, bassi bassi, un bel tovi. E lì sono proprio, non fa vendava, gli tu vuoi che facevo di gabbo, invece era sordo muto. Poverino. Tanto perché nascono così, quindi può essere sordo muto, può essere mezzo guai, capito? Ma c'erano i polpacci, nelle cose c'erano quante le cosce mie, fisciute, poi camminava tutto con i piedi larghi larghi, non l'hai mai visto un aletto camminare. Facciamo un'intelligenza allucinante, però questo penso che era detto alle pulizie, agli animali, perché aveva una divisa un po' particolare, che tu goggio corpetto, ci aveva verde, con i pantaloncini corti era d'estate. Poverino, cioè, li prendono perché non hanno altro, cioè... per lavorare lì, perché poi questi fanno anche una scelta di vita, me. Lavorano lì e tutte cose. Sì, bisogna allenamenti, ma bisogna, ci sono anche certe trapezziste, donne, Tonino mio, da paura, il mio muscolo. Sono buono e duro. Questo circo figlio, ma che ne dai, bella figlia, vabbè. Penso che apposta, poi che vita brutta che fanno, no. Che schifo, credimi, che schifo, va. Stanno in 7-8 dentro quelle roulotte, quei container, poi c'hanno i bagni chimici, mamma mia, grazie. Un fiago poi di animali, di cose, che schifo, veramente. Io l'ho visto, per carità, l'ho girato, e tirò la mattina per lo zoo, eccetera. E ho visto gente della ruota uscire, lavasse il carrello, mi ha detto, no. Quelli del circo già. Ah, io, vabbè. Adesso non è più così, c'hanno carrozzoni grandi, sono attrezzati, c'hanno l'acqua riscaldata e tutto. No, no, se non è più così, dai. Però devi tenere un lotto, lucidati sotto il carrozzone. Già, tu ci confondi con chi c'era giusto. Io l'ho vista a Olbia, al Fausto Noce, lì di Attogni, che è un grandissimo circo, siamo andati, stiamo vicino a Tonino, a fare un allaccio d'acqua volante, guarda, non te ne dico, sporco, poi ci sono queste docce dove si lavano tutti, non è che c'hanno, ognuno c'ha la sua doccia, assolutamente, proprio troppo ammassati, so. Anch'io ho visto quello di Carlo Mattea, il carrozzone, così chiamato, roulotte Carlo, ma 20 metri di roulotte, dentro c'aveva il bagno idromassaggio, c'aveva una casa che cammina, bellissima, ma quello era il padrone, magari il padrone c'ha un bel carrozzone, una bella roulotte, chiamala come vuoi, ma i dipendenti già, qua, lascia perdere, io li ho visti. Siamo scappati perché c'era il nano che stava facendo la pipì e c'era un manganello lungo un metro e quindi ce ne siamo andati. Sì, ma questo Carlo Mattera non l'ho mai sentito. Carlo Mattera, io ci ho lavorato, dico Mattera, non Mattera. Carlo è un padrone. Carlo è il padrone. Carlo Mattera è il grande, l'altro è Riccardo, l'altro. Capito, che poi non si chiama Carlo Mattera, si chiama Carlo Marengo, capito, ha preso Mattera perché la moglie è Mattera, è la padrona. Lo conosco anch'io Carlo Marengo, Picciolino, ma una vita la conosco. E mai molto bello. No, Carlo Marengo ha sposato la figlia della madre là, ho conosco la vita. Sì, sì, Carlo Matera ha sposato la figlia di... Carlo Marengo ha sposato la figlia di Matera, di... non mi ricordo di Paola, mi si chiama Maria Paola, la piccola, cioè la più grande, mentre Riccardo, il fratello di Carlo, che si chiama lo stesso Riccardo Marengo, ha sposato l'altra sorella e sono diventati loro i padroni. Però Carlo è morto 3 anni fa, lo sai, sì. Ma è vero? Sì, sì, è morto, morto. Cavolo, caro suo amico, bravo, eh. Lo so. È morto, era molto amico di mio cognato, di Giovanni. Molto, molto amico. È morto, muertos. Che Corrado si chiama Marengo. E Riccardo, Corrado e Carlo. Anche Corrado è il fratello di Carlo. Ma l'altro mese che vita facciamo? Oh, ci vediamo domani, boh. Ah, non so, lo so. Ed è un casino. È un casino, è successo, tra l'altro mi sto facendo mio cognato, perché la proprietà praticamente di Carlo dovrebbe passare al fratello, a Corrado, ma la cognata non vuole, è successo un casino. Ho visto che stanno più fermi al nero che altri posti, perché loro sa se lo fanno solo un giorno di più di trasferta, al nero sono fissi. Sì, sì, si stanno molto ad Olbia, anche qua. Non molto, so, però il tempo che stanno di più è ad Alghero, lì al porto. Ho visto anche dove mettono tutta l'attrezzatura, quindi è un campo abbastanza grandetto. Dietro quella specie di pizzeria si va con la strada che poi si va verso Corso Europa. Io ci lavoro spesso al Ghero, quindi ci vado spesso e volentieri. Io conoscevo Massimo Antoni, che erano i figli di signor Umberto, signor Bertino era il nonno, poi c'era la madre che era bionda, adesso non mi ricordo come si chiama. C'era incoglionita diventata. E Toni è il cognato di Carlo Corrado. Sì, sì, Toni e Massimo c'erano. Sì, questi due ci sono sempre. Ma laggiù non ci siamo più, perché io non li ho più visti, quando sono a Troghero non c'erano. Prima Massimo stava, Antoni stava ai dischi volanti, e Massimo stava a gestire i piccoli sempre. Divisi si sono già, è successo un casino. Praticamente alcune attrezzature sono passate a Toni e a Massimo e ci hanno fatto un Matterland per i fatti loro. Le altre attrezzature sono state divise. Una parte è quella che era di Carlo con la moglie, sono passati a Corrado. È successo un casino. Comunque Massimo e Toni sono indipendenti oramai, non fanno parte più del gruppo Matera. Ah, ecco, vanno sempre la giusta. Sì, sì, sì, sì. E le piazze sono diverse però, quella di Alghero ce l'hanno più. No, praticamente ci hanno preso per dire dischi volanti, autoscontro, la giostrina dei piccoli, per dirti, no, io non so esattamente cosa ci hanno preso, il tagalà, un sacco di cose ci hanno preso e ci hanno fatto il Matterland per i fatti loro, capito? Mi pare che si chiami Matterland 2. Così mi stava dicendo mio cognato, c'è sempre Matterland in mezzo, Matterdoni, no, una cosa del genere, tipo di trettoni. Ho capito, ma una cosa strana, prima erano molto uniti, conosceva il signor Bertino, il nonno, il signor Luciano, io li ho conosciuti tutti, ho lavorato all'autoscontro, sono stato alla rotta panoramica, la facevo la guida qui alla rotta panoramica. Bei tempi, bei tempi. Guarda, io quando ero ad Olbia portavo una busta, una busta di sede dello spin piena di biglietti, gettoni di autoscontro, palette, ha detto per l'autoscontro mi ha dato anche la paletta, metti la paletta e stai tutto il giorno lì. Le davo mia figlia che era piccola, piccola o cioè era già grandetta, era già maggiorenne, però era più piccola. Se andavo all'autoscontro con le sue amiche italiane, tutta la riconsumente a gratis. La chiave si chiamava, la chiave ce l'avevo anch'io. C'avevo quella di schivolanti e quella dell'autoscontro, perché parcheggiavo le macchine. E quella lì, con la chiave, mi ha mandato la chiave all'autoscontro, che avessi avanti, poi i biglietti per giocare in tutti i giochi, e giusti, di tutto. Ma sono andato a Reale, come rientravo a Sassari, sono Claudio, ma non ne ha di... Quanti ne hai i figli? Due, te, due mazzi a te, due mazzi a te, vai, girami le balle, porta tuoi figli alla giostra. Era Bombay io prima. Adesso non c'ho più nessun contatto, perché l'ultima volta che ho visto Carlo era ancora vivo, ed era, mi pare, 4 anni fa. 4 anni fa. E non stava bene, non era in forma, non era in forma. Poi sono andati via da Piazza dei Segni, sono andato ad Alghero, ho trovato a Corrado, mi ho fatto la chiacchierata, così l'ho detto Carlo, ma saputo non c'è più, è morto 2 mesi fa, e la mazza delle varie. Si piega. Oh, okay. Fatemi entrare con te, che sembra molto pericoloso il burrone. Ah, oh, sto confondendo io, mi sono vicicendi, sto confondendo con Pietro io, con Pietro là. Pietro è quello che c'ha il ristorante, prima ce l'aveva giù alle Conce, adesso ce l'ha, aiutami. Non ricordo, poi ho conosciuto che Amelio Piras e Pietro Piras e due fratelli, quando loro invece via Mendola avevano il ristorante Don Chisciotte. No, quello con le macchine, già lo so. Quello è quello con le macchine. No, Pietro, adesso ce l'aveva lì alle Conce prima, l'hanno intervistato anche nel periodo della pandemia. adesso c'era lì a era via nuova che è sempre incasinata, è proprio da lì che hanno fatto, hanno isolato il tutto con l'assembramenti. Ah, bravissimo, c'è un ristorante, bravissimo, da Pietro, ristorante, pizzeria da Pietro, giù, proprio a Sant'Antonio ce l'aveva prima. Dietro l'edicola? Ehi! Io quello addirittura l'ho conosciuto quando c'era il Marco Bracciato. Bravo, bravo, quello ha fatto mettere come Pietro Lascichia, ha fatto mettere come la Maddalena, la mia stessa età, è del 59. Vedo una vecchiaia. Cavolo, va molto vento c'è stanotte. È in fase di aumento, arriva sino a circa 40 km orari tu. Sta girando, adesso è maestrale. Tra un po' gira di beccio perché domani piove. Di nuovo? Ehi, pioggia domani, domani dopodomani, pioggia. Pioggia. Beh ragazzi, io vi saluto, grazie di tutto. Mi sono trattenuto, non sto volando sta partita. La Juve ha avuto la Gerranda oggi. E l'Inter non è passata. Vabbè. Pazienza. Ci sentiamo, state bene. A domani. Buon questo a tutti, buonanotte a tutti, ci vediamo e ci sentiamo. Ciao, passo e chiudo. Buonanotte qua, a domani, avanti un tour. Ciao, buonanotte, buonanotte. Fate per volante, non mi ha dato cibigia. Io non sento niente, vabbè c'è il vetri di camera qua. Tutto chiuso, sta parola chiusa, non sento niente. Io purtroppo sono sotto tetto, lo sento. Mi sono pronto a terrami, quindi. Mamma mia. E vabbè, anche la cosa vuole, ma basta, sono un'isola che c'era, ma avevo allora via, ragazzi. E pare che, anzi compiamo la macchina, lo so, ci compriamo la marcia. Chiappa, sento proprio il vento appena appena io, E qui lo sento perché sono sotto il tetto. E quello che ha facciato è diventato un'antenna che si bigia, un po' caretto, ma non va di nulla. Quando ho fatto la piatta a me non ho fatto nulla, ho fatto il rotto, per isso. Va bene ragazzi, dai che mi stendo un pochettino, che lo so sempre seduto, e non è sto bene sta posizione. Lo voglio mandare anch'io, dai. Ciao Gianni, salutoni, buon lunedì, quando lo farai, ciao Antonio, buon prosimbo. A domani, buon anno a tutti, credi già. Ciao Antonio, ciao, ci sentiamo, dai, buonanotte. Ciao Antonio, avanti. Ehi, a capa, ciao Tony, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, ciao. Capa. Ehi, già, pure io adesso chiuso la cosa, sono buccato, domani a mangiare, andate a lavagliare. E anche io sono stanco, mi sono riposato un po'. Anche io vado, dai, buonanotte, ci sentiamo domani, ciao, ciao. Ciao, ciao. Buonanotte.